Non so, se vi siate scandalizzati anche voi, restiamo un po' nell'ambito, come dire, feuerbachiano della critica alla religione, non so se vi siete scandalizzati anche voi alla notizia che a partire da mercoledì scorso l'Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci notoriamente, avrebbe offerto ai suoi lettori in fascicoli settimanali l'edizione completa del Nuovo Testamento, con prefazione del Cardinal Martini. E che quasi a manifestare l'approvazione della Chiesa Cattolica per tale pia iniziativa, il direttore di quel giornale sarebbe stato ricevuto in udienza privata con tutti i familiari dal Sommo Pontefice, cosa che regolarmente è avvenuta, peraltro. E qualcuno, credo, tra i lettori abituali dell'Unità e tra quelli del Vangelo, un po' scandalizzato si è. E si capisce anche perché da una parte ci sarà bene ancora qualcuno affezionato all'aurea definizione marxiana di religione come oppio dei popoli, e dall'altra non tutti avranno tranquillamente superato il sano anticomunismo con cui la Chiesa ha nutrito le sue pecorelle per tre quarti di secolo abbondanti. L'idea di un cardinale arcivescovo che scrive una prefazione al Nuovo Testamento per i lettori dell'Unità avrebbe procurato sicuramente il cardiopalma a Pio XII, ma probabilmente non sarebbe stata vista con entusiasmo nemmeno da quei vecchi militanti che una volta santificavano le feste diffondendo porta a porta centinaia di migliaia di copie dell'edizione domenicale di quel giornale. Ai miei tempi il Vangelo a sinistra lo si leggeva, quando lo si leggeva, soltanto per dimostrare come la Chiesa avesse fatto strame del suo messaggio, e a tal fine naturalmente a nessuno sarebbe venuto in mente di farsi scrivere la prefazione da un arcivescovo. Ma i tempi naturalmente cambiano. Quella contrapposizione ormai è consegnata alla storia, anche se può aver lasciato qualche residuo nella psiche di chi come noi l'ha vissuta. Oggi il Cardinal Martini può scrivere tranquillamente, come ha scritto, che nel Vangelo si legge soprattutto l'ansia per l'umano, la passione per il bene del mondo, e gli unici a protestare ad accusarlo di far politica con il PDS sono dei buzzurroni come quelli della Lega o di Alleanza Nazionale, con cui nessuno ha la minima intenzione di farsi confondere. Quanto al direttore dell'Unità, si chiama Walter Veltroni, come sapete, lui può spiegare altrettanto tranquillamente, io l'ho sentito in un'intervista a Radio Popolare, qui a Radio Popolare, a Tiziana Ricci, può spiegare che il suo unico interesse è quello di far conoscere agli italiani un testo fondamentale della civiltà umana. In fondo l'Unità negli ultimi 2 anni e mezzo ha fatto arrivare in casa dei lettori circa 30 milioni di libri, tra cui alcune delle cose più importanti della letteratura mondiale, non si vede perché non i Vangeli, che una loro importanza indubbiamente ce l'hanno. Non è necessario essere spiriti religiosi per apprezzare ciò. Salvatore Veca, intervistato sulla stessa Unità, ha detto, per la verità senza sforzarsi troppo, che da qualunque parte lo si veda, se si creda o non si creda, comunque i Vangeli esprimono un nucleo di valori etico-morali importanti che possano essere visti con grande attenzione da chiunque, eccetera. È verissimo, eh? È verissimo, non voglio negare una ovvietà così palese. Io vi confesso solo, di fronte a simili considerazioni tendo non proprio a scandalizzarmi, ma a irritarmi un pochino, perché non mi sembra così bello né così giusto soffocare delle differenze, delle contrapposizioni, che proprio in quanto contrapposizioni hanno dato il senso alla storia degli uomini, in una concordia che tutto sommato è così blanda e insipida, ma questo solo perché io sono di carattere inguaribilmente litigioso. Veltroni evidentemente è molto più accomodante, io di solito non leggo l'Unità, di lui sapevo solo che lo considerano un bravo giornalista che per un pelo non è diventato segretario del suo partito, ma mi è capitato, cambio apparentemente argomento, mi è capitato di sentirlo di persona un paio di settimane fa a un dibattito, pensate un po', sul significato sociale del gioco del calcio, si intitolava La calciocrazia, ma il senso era quello, no? A cui credo che fosse stato invitato perché l'Unità, prima del Nuovo Testamento, ha distribuito le ristampe dei celebri albi di figurine dei giocatori della Panini. E devo ammettere che a mancargli non è certo l'apertura mentale. A chi tra i relatori sosteneva che il calcio in Italia ha una pericolosa tendenza a finire in mano ai vari Agnelli, Andreotti, Ciarrapico, Berlusconi, a diventare non proprio strumento in regni, ma insomma strumento di consenso, tanto che un non oscuro pensatore marxista, questo provate a indovinare chi l'ha citato, un non oscuro pensatore marxista ha potuto sostenere che ogni gol segnato sul campo da football è un autogol dei dominati, rispondeva che no, questa è un'esagerazione, anzi una degenerazione, perché il calcio in sé è una cosa bellissima e la strumentalizzazione politica, e come le manifestazioni di tifo più incivile, non altra cosa di cui quella sera si era molto parlato, non sono altro che delle incrostazioni, qualcosa che può o deve essere sollecitamente rimosso. E voi capirete che con un argomento del genere si può sostenere e accettare praticamente tutto. Di qualsiasi fenomeno che presenti degli aspetti sgradevoli, in fondo si può affermare che il fenomeno in sé va benissimo e che sgradevoli sono soltanto le sue incrostazioni. Lo si può dire del calcio per liberarsi dal patronato di Berlusconi o dai tentativi di linciaggio dell'arbitro, lo si può dire del cristianesimo, quando qualche anticlericale rompicoglioni sostina a tirare in ballo le crociate e i roghi alle streghe, e credo che tutti noi lo abbiamo detto del comunismo quando i reazionari ci rinfacciavano il gulag. Ma naturalmente, visto che la distinzione tra un in sé buono e una degenerazione cattiva non è scritta da nessuna parte, non si trova né nella natura né nella storia, ma dipende soltanto dai criteri di chi se la pone, è difficilissimo che chi si serve di quell'argomento non finisca con avere ragione. È difficilissimo trovare qualcosa che in un modo o nell'altro non possa essere validificato. Così anche un quotidiano con alle spalle una tradizione ideologica abbastanza ben definita, sia pure non proprio sottolineata oggi, come l'Unità, ha potuto offrire ai lettori negli ultimi 2 anni e mezzo i materiali di lettura più eterogenei che si possano immaginare, non soltanto il Nuovo Testamento e i testi di valore letterario esimio, Conrad, Melville, Leopardi, ma anche gialli, ottimi gialli e pessimi gialli, romanzi umoristici, pessimi romanzi umoristici e ottimi romanzi umoristici, albi di figurine e altro. Perché tutto, proprio tutto, basta trovare il punto di vista giusto e merita di essere divulgato. Però c'è un altro problemino, che è quello in ultima analisi per cui l'iniziativa evangelica dell'Unità proprio non riesco a farmela andare giù, è perché se tutto da un certo punto di vista merita di essere divulgato, è difficile trovare del merito nella pretesa di divulgare tutto. No, mi spiego, no? C'è una logica nell'offrire ai lettori del Nuovo Testamento, ai lettori il Nuovo Testamento e i classici della letteratura mondiale, figuriamoci. E c'è una logica nell'offrirgli dei gialli, sarò certamente l'ultimo a negarla. E ce ne sarà senz'altro una nell'offrirgli dei vecchi albi di figurine, anche se personalmente a me un pochino sfugge. Ma che logica c'è nell'offrire in rapida sequenza i classici, i gialli, la lettura popolare, gli albi di figurine, i Vangeli? Se vedete, se provate a unificare, nulla ci vieta ad unificare queste offerte, vedrete che l'unica logica che ci sta sotto è quella dell'offerta promozionale, cioè del gadget celofanato per attirare lettori, che è la stessa logica perversa che in pochi anni ha trasformato le nostre edicole in una specie d'enorme bazar di chincaglieria e che permette agli editori di darsi battaglia per strapparsi settori del pubblico senza azzardarsi nemmeno a mettere in discussione il valore intrinseco del proprio prodotto in quanto strumento di informazione. Perché il problema, naturalmente, è quello di attirare i lettori offrendogli dell'informazione vera, e su questo la strada da percorrere è lunga per tutti. Ma che devo dirvi? Quei libri offerti come gadget, esibiti come fossero dei portachiavi di plastica, come dei poster dei divi della canzone, e per di più esibendo la pretesa di fare della cultura, a me fanno una malinconia spaventosa. Il pericolo non è quello di rassegnarsi a un vago eclettismo più o meno alla moda, o neanche quello di cedere le armi di fronte a un vecchio nemico ideologico. Il pericolo è quello di calare le brache di fronte a una logica, alla logica spietata della mercificazione a tutti i costi di tutto. E credetemi, è un pericolo molto più grave. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on.